Amici, sono le 7:30, ma spaccate, almeno dell'orologio qua, sì, va bene. Pane, burro e rock and roll, venghi o signori venghino! Un saluto a Sergio, patente 136, che dice, un gruppo d'ascolto papà che portano i figli a scuola, vorrei venire a salutarvi in radio prima di Natale con mia figlia Silvia e magari Tino il tassista. Però Silvia è timida, puoi convincerla tu? Silvia! Vieni! Vieni a Rock FM! Ti faccio conoscere Mister Trombetta! Poi ho bisogno... e questo lo dico a papà Sergio. Ho bisogno di farla cantare, Silvia, quindi portala qui. Abbiamo bisogno di bambini che cantano. Ne stiamo combinando una delle nostre. Venite, venite a trovarci! Ciao Silvia, dai, vieni su. Dite che l'ho convinta. Io passo a un altro. So fare la cornamusa o la zampogna con il naso tappato. Tu scendi dalle stelle, roba da corrida di Corrado. Posso partecipare al provino? Certo. Guarda che non c'è bisogno, cioè, per fare il musicista rock con la bocca puoi fare anche la zampogna col naso. Non è più con la bocca, ma insomma, il regolamento riusciremo a sviarlo in qualche modo. Un saluto ad Alberto e un saluto a Dario 56 da Zena. Poesia rock del giorno. Il matrimonio. Guarda un po' te. Alla sola parola mi viene pure da tossire. Allora, poesia intitolata al matrimonio. Il primo è cercato, il secondo è voluto, il terzo è svanito. Resto solo e contrito. Complimenti, Dario. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Non ho parole. Le porgo davvero le mie scuse, dottore, perché io stavo venendo al lavoro, un filo in ritardo, ma proprio, come dicono a Roma, sa, un'anticchia. Lei conosce il gergo romano. Proprio un filo. Mi dispiaceva arrivare in ritardo, così ho deciso di tagliare per il parchetto comunale. Sa la villa comunale, quella col verde? Ecco, ero sempre lì che di buona lena, insomma, facendo anche un po' di jogging, perché mi piace tenermi in allenamento, è vero. Avevo infilato la mia strada, avevo preso la mia direzione, quando ho visto una meravigliosa palla blu in mezzo al prato. E allora lei sa che noi italiani siamo tutti un po' calciatori, no? Io sono tornato bambino, quando ho visto questa palla in mezzo al prato ho preso una bella rincorsa per darle un calcio, come dico io, insomma, volevo centrare la zona in mezzo a due abeti e fare gol. In realtà, dottore, era una palla medica da 12 chili. Il ritardatario ritardato, non dimenticate! Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. E come se non bastasse, poi ho tentato un po', se me lo consente eroicamente, vero, di riprendere la strada per l'ufficio, perché volevo davvero arrivare quantomeno con un ritardo sopportabile. Zoppicando ho superato un giovane zoppo, il quale ha pensato che lo stessi prendendo in giro. Sì, lui mi ha detto: tu mi prendi per il culo, mi perdoni per il linguaggio, è vero, ma è come si è espresso il giovanotto, e ha iniziato a picchiarmi. Knocking on Your Back Door, Deep Purple. 7:40 minuti primi. La colazione di pane, burro e rock and roll con l'Ariele, Spadino, Freak Anthony e Mr. Trombetta. Ci siamo fatti anche il nostro bel ritardatario ritardato di quest'oggi, ma io sono in ritardissimo con le mail, già ai primi 40 minuti di diretta, quindi corro a salutare qualche amico che ci scrive, in particolare Sab da Firenze, la nostra pulmista, quella che ci fa sapere delle luminarie natalizie di Firenze. Intanto è tutta contenta perché ieri si era persa Gli Uomini Nudi di Rosi. Meno male che c'è internet, dice, perché perdersi gli sportivi col calzino sarebbe stato un po' troppo. Chiede anche se quello con la nella foto col calzino sono io. È un fotomontaggio che ha fatto Rosi, sì. Per capire di cosa stiamo parlando, myspace.com, paneburro FM. Chiede anche se possiamo segnalare questa partita, AIC Toscana, triangolare di calcio, al stadio comunale di Montecatini Terme. Le squadre saranno Nazionale Azzurri dello Spettacolo, Polizia di Stato, Questura di Pistoia e AIC Toscana. Ore 9, biglietto 10 euro. C'è anche un telefono, ma c'è il giorno, Sab? Ma sai che non mi hai messo il giorno? Sei una ciapa quai, come si dice da mia parte. O sono io talmente biscoro che non lo vedo? No, non lo vedo. Però per informazioni vi lascio un numero di telefono, quindi meglio di così. 0572 911 864. Chiede anche quando arriveremo a Firenze, cercheremo di arrivare al volo il prima possibile per distribuire le patenti da vero rocker. Quindi andate allo stadio di Montecatini Terme per questa partita importante. E passiamo a un'altra mail. No, Luana la hostess la devo leggere dopo, anche perché oggi volevo mandarla in onda ma sta male la nostra rocker di riferimento che viaggia su uno yacht gigante. Mentre saluti a Massimo, che era quello che chiedeva di rendere in numeri il suo sogno inquietante. Lui ha avuto un incubo questa notte, ovvero era venuto a trovarci in trasmissione qui a Rock FM e scoprivo che trasmettavate da un parcheggio dove avevate a disposizione un'auto e un furgone. Nell'auto avevate i CD, dischi, eccetera. Nella bauliera del furgone il mixer. Guarda che più o meno siamo messi così, eh. Io e altri spettatori eravamo seduti dentro il furgone. Poi non mi ricordo bene cosa succedeva. L'unica cosa che ricordo era Freak che mi guardava con sguardo allucinato. Potresti farmi trasformarmi questo sogno in numeri, che così me li gioco? Caro Massimo, mi è arrivata la mail di Carlo al volo. E attenzione, scopro non solo che abbiamo i numeri, ma che Carla ti sta preparando i tarocchi. Sto scoprendo tutto in diretta. Intanto i numeri sono 72, il parcheggio, 46, i mezzi a motore e a furgone, 30, apparecchiature elettroniche e 76, Freak sotto effetto di stupefacenti. Dove tu li vada a prendere non li so. Però questa è Rock and Roll High School, Ramones. 1, 2, 3, 4. Rock and Roll High School. I'm maestro Roberto Friccantoni, la prego, venga nello studio, ma non correndo, venga pure camminando, che c'è una rubrica da fare, se le va. Allos enfants de la patrie, des jours de gloire t'arrivent. La prego e mi dica cosa c'è, cosa sì. Glielo contestualizzo. Contestualizzi, esatto. Il 22 novembre del oggi. 1890, allora, nacque il grandissimo generale statista francese sull'attenti per Bacco, Charles de Gaulle. E allora siamo ai compleanni del giorno. Esatto, allora, vive la France, vive l'Italie. Bene, bene, allora proseguiamo di questi compleanni, già che ci siamo. A chi facciamo gli auguri? A Jamie Lee Curtis, attrice statunitense che nasceva nel 1958. 58, giovanissima, 1958. Non dice niente che è 4 anni dopo il 54. Avrei voluto evitarlo. E allora vuole dirci qualche film? Mi ricordo i film di Jamie Lee Curtis. Che è una mia personale amica. Li dica giusti, la prego, che ce li ha scritti perfetti. Oggi vada. Allora, una poltrona per due, ecco. Non la sporti. Un pesce di nome. Sì, Wanda. Lei sta pensando a un'altra. Un pesce di nome. Nome? Yolanda. No, Yolanda. E glielo suggeriscono pure. Wanda, un pesce di nome Wanda. True Lies, bugie vere. Ottimo. Quando ci sono i titoli in inglese le vengono precise. Esatto. Sì. E il chiudiamo. Santo di Panama. No, il sarto il di Panama. Santo di Panama. Incredibile. Proseguiamo con un tennista, un ex tennista tedesco, nasceva nel 67, Boris Becker. Molto ironico Boris Becker. Un tennista con il senso dell'umorismo, chissà se è raro, chissà se tra i tennisti è diffuso il senso dell'ironia. Boris Becker lo sicuramente possedeva. Sicuramente ce l'aveva. E chiudiamo con il compleanno di Scarlett Johansson, che nasceva anche lei il 22 novembre, ma dell'84, giovanissima. Di lei ricordiamo. Anche no, volendo. L'uomo possiamo che sussurrava anche non ai cavalli, ma cosa giusto? Sussurrava? E poi perché disturbava i cavalli? Se lo titolo diritto, del film, non c'entra ecco, niente. Poi Lost in Translation. Perfetto. Perso a Translation, che è una località della Florida. No, in realtà è stato tradotto L'amore tradotto, ma non c'entra niente, il titolo in italiano. Match Point. Sì, il bellissimo film di Woody Allen. Risposta esatta. Sì, perfetto, grazie. E adesso mi dica sì. Qual è il regista di Black Dahlia, Via col cronometro. Che cronometro? Incredibile. Brian De Palma. Risposta esatta. Bene, andiamo a farci un caffè, dai. Evviva giovedì, evviva il 22, evviva novembre. Can't you see? Love is the drug for me. gets the rest. Love is the drug, l'amore è la nostra droga. Roxy Music, gestiamo un attimo dalla pane, burro e rock and roll, puntata 135, rigorosa diretta, 7:52 minuti primi. Noi lo diciamo spesso e volentieri, avete un problema? Parliamone, ve lo risolvono i nostri radioascoltatori. Però prima di occuparmi nello specifico del problema del nostro radioascoltatore Mattia, vi chiederei la gentilezza di non essere violenti come al solito, perché io lo so che i nostri radioascoltatori sono un po' violenti. Vediamo di farci raccontare il problema di Mattia. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao Mattia. Ciao Ariel, buongiorno a tutti. Allora iniziamo a spiegare che sei originariamente... Io sono forlivese, dalla Romagna. Forlinese. Però in questo momento ti trovi a Rotterdam. Esattamente, in Olanda. Ok. Ci scrive un messaggio. Arrivano qualche volta messaggi di questo tipo, ovvero: ragazzi, io me ne sto andando dal mio appartamento, però voglio vendicarmi della mia vicina di pianerottolo che mi ha rotto le scatole. Avete qualche buona idea? Io, Mattia, ti avviso. Nessuno ha delle buone idee qui a Rock FM, eh? Cioè sarà tutta roba violenta, a rischio galera. Però noi l'appello lo lanciamo. Tra l'altro, la cosa che più mi preoccupa è che tu non stai lasciando un appartamento per trasferirti due vie più in là, che quindi questa ti può ribeccare. No, io me ne ritorno a casa finalmente. Quindi volendogliela si può fare anche grande. Esattamente, esattamente. Occupiamoci del caso specifico, che è una vecchia. No, magari fosse una vecchia. Ah, che è? Purtroppo, diciamo tra virgolette, è una ragazza giovane di 20 anni, tra l'altro anche molto molto carina. E ovviamente non te l'ha data. Assolutamente non me l'ha data, il che è un buon motivo per vendicarsi. Allora Mattia, ti abbiamo tanato al volo, ma è solo per questo? No, non è solo per questo. Te pensa che questa ragazza ha la, diciamo, bella abitudine di fare frequentissimi, rumorosissimi e lunghissimi party dance, commerciale, techno per tutta la notte. Cazzo, che palle! Però le amichette non ti rendono la cosa più dolce? Guarda, io sono fidanzato, quindi come dice un mio caro amico, sono un lupo vegetariano, capito? Okay. Molto bella l'immagine. Quindi party techno trance, mannaggia. Guarda, ma in un appartamento? Sì, io sono, diciamo, in un appartamento per, diciamo, studenti stranieri. Sì. E sì, lei è la mia vicina di pianerottolo e faceva tutti questi party, ma per tutta la notte non riuscivi a dormire. Quindi secondo me la vendetta potrebbe essere una vendetta anche musicale. Guarda, tipo, dovremmo trovare il modo di farle ascoltare i Dimmu Borgir per tutta la notte, una roba che così. Tra l'altro dovrei anche averne il computer. Guarda, non dubitavo, caro Mattia, in quanto radioascoltatore di Rock FM. Dici qualcosa di più violento? Facciamo dei Cannibal Corpse, non lo so. Guarda, i Cannibal mi mancano invece. Ecco. Però bisogna, insomma, l'appello che Mattia lancia a voi radioascoltatori, piano però, non esageriamo troppo, come vendicarsi di questa vicina. Come si chiama la vicina? La vicina, sai che non me lo ricordo. Ma sai che non ci interessa nemmeno. Ma non ci interessa neanche il nome. Detto la verità, vicina. Era proprio solo una cosa così. Mattia, intanto quando è che abbandoni Rotterdam allora? Giovedì prossimo. Quindi da qui a giovedì ci dobbiamo far venire una bella idea, perché magari la cosa carina è farglielo proprio il giorno che te ne vai. Così, assolutamente, saluti. Con le valigie in mano. Esatto. Il piano dovrebbe scattare anche quando sei già sull'aereo. Perché no, così sono proprio tecnicamente fuori dai confini, esatto. Oh, l'appello l'abbiamo lanciato, Mattia, tu resta in contatto, ascoltaci da lì, certo. Ovviamente ci senti in streaming. Assolutamente in streaming. RadioRockFM.com. Mattia, a presto, le faremo sapere. Vediamo grazie cosa accade. Ariel, e sono nelle vostre mani. speriamo di trovare una buona idea. Ciao, okay, Mattia. Ciao Ari, ciao a tutti, ciao. Non scrivete robe assurde, per favore. 335 100 77 77. Caspita, ho rovinato l'inizio di I Shall Be Released. Che scemo. Facendo provare i nuovi stivanetti per la neve. Beh, non è proprio così, Frigo. Gli umani, maledetti loro, stavano testando uno smalto rosso, quello per le unghie, e già così sembravo, lasciamelo dire, un topo travone. Poi, poco dopo, ho scoperto di essere allergica allo smalto e mi si sono gonfiate le zampette. Tanto che non riesco più neanche a correre sulla ruotina e neppure a grattarmi. Mi pesano troppo le zampette, Frigo! Peccato, ti donavano quei monboot. Fanculo, Frigo, questa potevi risparmiartela. Pare burro rockerò, pare burro rockerò. Mazza che figata sto programma, raga!